Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di Energy Community stasera per raccontarvi di un modello che si sta cercando di sviluppare nel bolognese a partire dal 2011, le comunità solari locali. Parliamo in pratica di associazioni di cittadini e di imprese che a livello di municipio danno vita a una serie di azioni volte a incidere sulla pianificazione energetica locale, a partire dall'idea che l'energia deve cessare, diciamo così, di essere una commodity che qualcuno produce e qualcun altro compra e deve invece diventare un bene comune da gestire più o meno come facciamo oggi con la sanità, con la salute. Ne parliamo con l'ideatore delle comunità solari locali, il professor Leonardo Setti dell'Università di Bologna. Buonasera Setti. Buonasera. Allora, intanto vabbè, diciamo subito che si chiamano comunità solari, ma non avete alcun pregiudizio voi verso il vento, la geotermia, vanno bene tutte le rinnovabili. Il tema invece qui è proprio quello dell'indipendenza energetica del territorio tramite le fonti rinnovabili. E voi avete individuato una vostra strada. Questa community si costituisce in pratica intorno a un fondo integrativo che viene costituito dai vari soci. Comune, sì. Privati cittadini, come nasce? Ma nasce dall'idea che siccome dobbiamo gestire appunto un bene comune, quindi dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini, tutte le imprese, cioè tutti coloro che fanno parte del territorio possano usufruire di questo bene comune. Usufruire di questo bene comune vuol dire innanzitutto non sprecarlo, quindi fare tutto ciò che occorre per non sprecarlo e dall'altra parte produrre energia da fonte rinnovabile rispetto a quello che è il consumo energetico che abbiamo. Quindi ogni soggetto, come dire, interessato al suo territorio lo invitiamo a contribuire appunto a un fondo integrativo, il quale a sua volta andrà a premiare sotto forma appunto di quelli che si possono chiamare come dei voucher o dei bonus economici nel momento in cui uno dei soci che lo sta sostenendo fa azioni verso la riduzione dei consumi piuttosto che verso la produzione di energia da fonte rinnovabile, per esempio quando riqualifica la casa, compra un elettrodomestico a basso consumo, un'auto elettrico a metano eccetera, oppure quando dall'altra parte produce, installa che so, il fotovoltaico piuttosto che il solare termico o qualcos'altro. Ecco, quando fa questa cosa il singolo socio, io potrei essere io se abitassi a Bologna, riceverei un voucher che è una percentuale della spesa che sostengo per fare queste attività che, diciamo così, migliorano la Energy Community nel suo complesso. Mentre normalmente tutti gli anni tutti i soci che decidono di loro spontanea volontà di aderire, diciamo, a questa Energy Community versano una quota che la Energy Community utilizzerà per che cosa? Allora, la quota che viene versata, che tra l'altro viene parametrizzata proprio su quelle che sono le emissioni, quindi chi più è bravo meno versa, e viene utilizzata per cofinanziare le piattaforme fotovoltaiche, okay. Quindi permettere a quei cittadini che non hanno il tetto a disposizione, piuttosto che vivono in un condominio, in centro storico, eccetera, eccetera, di potersi prendere delle quote energia, riservarsi delle quote energia di un impianto, cambiando il proprio fornitore elettrico con quello che gestisce. Con la utility che a sua volta è entrata nella community e che fa da distributore di questa energia pulita? Esatto, ricevono uno sconto direttamente sulla bolletta elettrica per aver prodotto energia da fonte rinnovabile. In questo modo l'idea è quella di che la community permette a tutti i soci di poter avere la rinnovabile anche a quelli che non hanno, come dire, le disponibilità fisiche per poterla fare. Insomma, l'idea è quella di dire, se, come abbiamo avuto anche questi anni, il conto energia che è andato a sostegno di molti che hanno investito in fotovoltaico, ma non tutti potevano usufruirne, proprio perché se non hanno il tetto non lo possono fare. O magari i soldi, perché magari avevano il tetto ma non i soldi per l'impianto. Assolutamente. In questo modo invece permetterà a tutti di usufruire di questo bene. Quindi diciamo che si può partecipare anche così, perché si crede al progetto, semplicemente versando una quota da socio simpatizzante, diciamo, sì. Oppure si può essere sempre di più dei membri attivi, diventare coproprietari di queste piattaforme che poi, energetiche, che poi sono il modo attraverso cui effettivamente quella comunità lì si rende indipendente, no? Assolutamente, ecco. Tra l'altro uno può partecipare alla propria comunità solare o come socio ordinario, cioè il socio che dice io non voglio impegnarmi moltissimo, ho bisogno di capire intanto l'energia come funziona, eccetera, e riceve a fronte di un piccolissimo contributo che può andare dai 10-15 euro, la possibilità di avere per esempio un check-up della propria casa, quindi capire come si consuma nella casa, quindi migliorare, certo, quindi avere già uno sconto sulla bolletta, oppure sostenere la propria comunità diventando socio sostenitore del fondo integrativo, fino ad arrivare a diventare prosumer, cioè produttore, consumatore al contempo, quando si diventa soci energetici, che allora a questo punto si incide molto sia in termini di riduzione dei consumi che in termini di produzione di energie rinnovabili, quindi riduzione delle emissioni complessivamente. Grazie, grazie Leonardo Setti, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Appuntamento a domani.